Parliamo ora di una data secca, venerdì 10 febbraio al Teatro Palladium a Garbatella qui a Roma. Ne parliamo con Elena Bucci, lo spettacolo è La pazzia di Isabella. Elena, ben ritrovata a Radio Onda Rossa, al Radioteatro. Ciao a tutti voi, ciao, ben ritrovati a voi, ciao. Allora, un nuovo appuntamento per le belle bandiere, parlacene un po'. Ma questo spettacolo è un spettacolo molto fortunato, che amiamo anche tantissimo, perché ci accompagna, penso, dal 2004, sai che noi pratichiamo il repertorio e siamo proprio in zona anche molto vicina alle cose di cui ci occupiamo in questo lavoro, perché indaghiamo Isabella e Francesco Andreini, due figure di spicco del periodo bellissimo della commedia dell'arte italiana. Per il passaggio la creazione delle prime compagnie professioniste, il passaggio della professione di attore è diventata una vera e propria professione, dalle piazze è salita su fino alle corti dei re, ma sempre mantenendo queste caratteristiche di grande libertà, il full del teatro, dove appunto i potenti andavano a spiare, come diciamo nel testo, quello che pensava davvero la gente, quindi questa capacità anche di nelle corti di dire delle cose che in altro modo sarebbe stato impossibile dire, con un enorme seguito di pubblico in tutta Europa. Quindi sono due figure interessantissime che andiamo a indagare attraverso i documenti, con la collaborazione di Gerardo Guccini, la drammaturgia, che ci ha fornito moltissimi documenti e che ha continuato ad avere appunto una lunga vita. Passiamo attraverso i documenti, sono poi sempre molto allusivi, riguardano spesso delle intuizioni, dei racconti, qualche canovaccio, ma la maggior parte dell'arte meravigliosa viene restituita dai racconti, perché non veniva scritto come siamo abituati ora, punto per punto, quello che veniva fatto, né tanto a volte descritto qualche traccia, ma l'arte dell'improvvisazione era sovrana, quella che ci ha fatto grandissimo in qualche modo. Senti Elena, qual è stato il momento o l'esperienza che ha segnato il passaggio dall'arte di strada al riconoscimento attoriale? È difficilissimo individuarlo. Ci sono state proprio delle figure, io credo che certi passaggi avvengano perché delle epoche sono pronte, sì. Poi magari vengono individuati i passaggi in individui, ma non è mai una cosa di individui. C'è stato un grande movimento che ha portato a questo interesse enorme, ma ad esempio se vediamo Isabella Andreini, ad esempio, è stata una figura molto stranissima, perché ha creato personaggi col suo nome in quanto anche donna nell'epoca, è stata accolta nell'Accademia degli Accesi tra i più grandi poeti, quindi diciamo che è stata una figura speciale, particolare, intorno alla quale si è appuntata l'attenzione proprio per le caratteristiche di praticare la scena che la scrittura, e Francesco Andreini ha creato il personaggio il Capitano Spavento da Vall'Inferno, un personaggio che ha avuto un successo enorme, e anche lì spostando l'attenzione, creando dei personaggi atipici che avessero anche riuscivano a collegare nel loro fare la cultura bassa e la cultura alta, sono riusciti a fare un'operazione gigantesca da questo punto di vista, ma io penso, come vedo che accade nel presente, che accanto a loro ce ne fossero molti altri. Infatti l'inizio dello spettacolo è una registrazione di nomi dei quali magari sappiamo molto meno, perché hanno scritto meno di sé, gli altri hanno scritto meno di loro. La fortuna è una cosa, è anche questo, è detto uno spettacolo, la fortuna è una cosa di inafferrabile, la sorte, chi può dire? Se pensiamo che Vivaldi era sconosciuto fino a pochi decenni fa quasi nella nostra arte, figurati chissà quanti grandissimi noi non conosciamo, sì, magari ci rimane un nome, e infatti li evochiamo in una registrazione all'inizio, ma credo che molti altri insieme a loro si muovessero in un'onda di estrema creatività che ha trovato tutta l'Europa pronta ad ascoltarli, in un'epoca di cambiamento di come era quella, di voglia di nuovo e di sorprese, di meraviglia, basata anche sul talento straordinario individuale, sorprendente perché individuale, di ciascuno di loro. e libero anche, perché c'è un bellissimo pezzo che scrive lei, ma lui era d'accordissimo, e anzi non si sa quanto di quello che è stato riportato come di Isabella poi sia di Francesco, però un pezzo bellissimo dove dice grazie no ai principi, cioè, ci fa piacere che ci accogliate, che ci diate attenzione, riconoscimento e quanto dovuto, ma rifiutiamo di entrare nella corte come parte della corte, vogliamo mantenere la nostra natura libera e girovaca, perché è questo che ci garantisce l'intelletto sveglio e non avere paura, che non dover ridere e piangere quando ride e piange il nostro Signore, ecco, è detto tutto. Ecco. Senti, e non era facile, non era facile certo, perché la fortuna e la sfortuna erano a braccetto. Allora, il 2016 ha portato due importanti riconoscimenti, se non sbaglio, un premio Eleonora Duse e un premio UBU. Ma pensa un po'. Ma pensa un po'. Io sono rimasto ancora, quando me lo ripetono, sono molto contenta, ma tuttora dico, ma pensa, questo, sono molto contenta, sono contenta anche... Ecco, una cosa che mi fa molto piacere, che ho cercato di scrivere, di trasmettere, è proprio che sono contenta per me, chiaramente, ma anche perché evidentemente lo sguardo si allarga anche a persone, modi di lavorare che sono quanto di meno presenzialista possa esistere, su questo posso dire. Quindi molto lavoro, sì. Molto piacere nel collaborare con gli altri, estrema apertura, però sicuramente poca presenza nei luoghi, in molti luoghi, proprio perché privilegiamo il lavoro soprattutto, il rapporto con gli altri artisti, con il pubblico, e quindi questo significa che comunque si può essere visti anche non seguendo dei canali speciali, ecco. Sì. Quindi è un piacere questo, ed è un premio che va anche tutto un modo di lavorare. Adesso sembro presuntuosa, ma mi sembra che si avvicini un po' a questa commedia dell'arte, tentiamo perlomeno di tenere sempre in mano gli strumenti del nostro lavoro, di poterli governare, mm-hmm. come strumenti di libertà e di scelta anche, mm-hmm. che non vuol dire non poter collaborare con delle moltissime altre realtà, però provare a conservare quello spazio nel quale ogni volta ci si interroga veramente intorno all'importanza, al senso di quello che si fa, e questa libertà ha dei prezzi un po' alti nella fatica, però finora ne è valsa la pena. Certo. Senti Elena, ci lasci i riferimenti web per saperne di più sulle vostre attività? Certamente, c'è il nostro sito che si chiama www.lebellebandiere.it, c'è una pagina Facebook delle Belle Bandiere, e diciamo che questi sono gli strumenti principali, c'è qualcosa anche che riguarda me e Marco separatamente, dei blogspot, cioè sono dei pazzi che hanno fatto nella Bucci Fan Club e lì trovate tutto. Senti, allora, io spero di ospitare nuovamente un tuo lavoro qui al Radio Teatro, che può magari un lavoro che funziona radiofonicamente, poi magari ci pensiamo insieme. Con grande piacere, okay. Con grande piacere, sai che a noi fa moltissimo piacere, per fortuna avvalendoci della collaborazione di Raffaele Bassetti, che è un genio del suono, veramente lo è, e abbiamo anche la possibilità di abbiamo delle registrazioni, lui si è specializzato nel registrare le cose in modo che abbiano una qualità che si può trasmettere, sì, anche attraverso, sì, la radio, sì, quindi bene, ci possiamo ragionare molto bene. Bene, certo. Allora, un grande piacere. Io ti abbraccio, ricordiamo allora venerdì 10 febbraio al Teatro Palladium nel quartiere, sì, di Garbatella, sì, qui a Roma, con La pazzia di Isabella, Le belle bandiere, Elena Bucci, un abbraccio, un in bocca al lupo. Un in bocca al lupo a tutti voi anche, grazie mille, ricordo ovviamente Marco Sgrosso che è in scena con, certo, me, e la nostra compagnia Le Belle Bandiere. Bene. Che è un gruppetto. Ecco. Ci vediamo a teatro. A teatro, grazie mille, un grazie abbraccio. Mille per l'attenzione. Ciao, ciao a tutti voi. Ciao. Ciao, ciao, ciao.